Volevo fare un'introduzione perché qui da questi microfoni, da questa radio, Radio Onda Rossa, ci siamo occupati spesso, abbiamo puntualmente raccontato delle aggressioni che si verificano sistematicamente ad Ostia. Abbiamo visto che è stato indetto un corteo per questo sabato ad Ostia, quindi insomma un appuntamento importante, direi cittadino, proprio per dare anche una risposta. E quindi ti chiederei un po' di farci un'introduzione anche dello stato dei neofascisti ad Ostia, visto che insomma imperversano tra provocazioni e proprio vere e proprie aggressioni, e soprattutto qual è stato un po' il casus belli, diciamo così, che ha fatto venire in mente alla cittadinanza, ai compagni e alle compagne, a te che insomma sei tra i promotori di questo corteo di sabato pomeriggio ad Ostia. Sì, allora innanzitutto introdurrei dicendo che insomma il problema delle aggressioni fasciste e razziste ad Ostia è un problema che sono molti anni che è presente e reale sul territorio del decimo municipio. Ricordiamo, accennando così a varie aggressioni molto importanti che ci sono state, ad esempio l'aggressione agli operatori del Teatro del Lido qualche anno fa durante un attacchinaggio alla vigilia di un corteo per l'Alta Ostia, si chiamava, mi ricordo, fino a aggressione agli studenti del liceo Ancomarsio e di altri studenti o operatori sociali e culturali del territorio. In questo caso la vicenda inizia, se non sbaglio, il 31 gennaio durante un incontro della sindaca Raggi con la cittadinanza di Ostia al municipio decimo, quindi al palazzo del governatorio di Ostia. Ricordiamo che poi la sindaca non si è nemmeno presentata. Sì, tra l'altro non si è presentata comunque. No, e questo compagno, insomma, che è un operatore culturale, più un operatore sociale, scusate, del territorio di Ostia, che fa parte di un'associazione, una onlus che si chiama L'Alternativa, che è un'associazione che si occupa per lo più di assistenza a detenuti, prostitute, senza tetto, persone senza fissa dimora, immigrati, quindi comunque possiamo definirla come un'associazione di intervento umanitario, voleva partecipare a questo incontro, si viene da Roma, incontro a Roma si chiamava, e è stato intercettato dai fascisti di Casa Pound, che erano in presidio sotto al municipio contro la presenza della sindaca Raggi. Una volta che gli è stato impedito l'accesso al municipio proprio da questi figuri, si è allontanato verso la macchina per tornare a casa. È stato seguito da cinque fascisti e insomma a suon di calci e pugni è stato, diciamo, malmenato, picchiato. Lui ha riportato due costole incrinate e 15 giorni di prognosi, una volta che è andato all'ospedale insomma a farsi vedere. Da questa aggressione è nata poi la proposta da compagni e compagne, insomma, che si sono confrontati tra di loro, e da ragazzi del mondo, diciamo, delle associazioni di Ostia, un'assemblea pubblica alla quale hanno partecipato poco meno di 100 persone, quindi comunque una notevole partecipazione per un'assemblea del genere che si svolge a Ostia. E questa assemblea, insomma, ha riportato la volontà di tutti e tutte di denunciare pubblicamente questo clima di intimidazione, di violenza che è scaturito dalla presenza costante dei fascisti di Casa Pound. Quindi insomma un'assemblea attraversata da un mondo varissimo, molto largo, quindi oltre a compagni e compagne magari sciolti del territorio, erano presenti associazioni piuttosto che studenti, insomma varie individualità del territorio che attraversano quotidianamente il territorio. E niente, quindi da questa assemblea insomma è uscita questa data del corteo che si terrà ad Ostia sabato prossimo, sabato 11 febbraio. Ci puoi ricordare l'orario della manifestazione? Sì, allora vabbè, l'appuntamento pubblico alle 15.30 a stazione Lido Centro, facilmente raggiungibile insomma la piramide con il trenino Roma Lido. E il corteo sarà un corteo molto largo, di ampio respiro, quindi all'interno ci saranno, cioè un corteo cittadino, diciamo, ci saranno famiglie, insomma artisti, musica, cioè sarà un corteo molto comunicativo sotto questo punto di vista. E ripeto, nasce proprio dalla necessità di denunciare questo clima che si è venuto a creare a Ostia da parecchi anni a questa parte. Un clima che sicuramente è pesante per via dei fascisti, ma anche insomma purtroppo alla crisi politico-istituzionale che il territorio vive, oltre ovviamente alle notissime vicende di mafia, molto spesso anche molto spettacolarizzata e in senso folcloristico. Sì, assolutamente, infatti in questo senso ci tengo a sottolineare che il corteo vuole comunicare anche questo, nel senso vuole comunicare innanzitutto una condanna alla violenza fascista e razzista sul territorio, e poi soprattutto vuole comunicare che Ostia non è un territorio di mafia e fascisti come spesso viene dipinto, ma Ostia è un territorio meticcio, un territorio solidale in cui gravitano decine di esperienze sociali che insomma fanno attività, attivismo sul territorio. Ostia è altro, non è soltanto questo. Ostia è un quartiere di giovani, di studenti, di esperienze sociali e culturali, e attraverso proprio queste pratiche che i ragazzi e le ragazze, i compagni e le compagne di Ostia praticano ogni giorno, che si vuole rispondere con molta determinatezza al clima di intimidatorio, insomma, creato dai fascisti di Casa Pound. Senti, infine, per concludere e rilanciare l'appuntamento, puoi darci qualche contatto dove magari chi ci sta ascoltando può andare a vedersi i comunicati, l'indizione della manifestazione o eventualmente aggiornamenti in vista di sabato? Sì, assolutamente. Vabbè, su social network, su Facebook, si può consultare la pagina Ostia Solidale, che è insomma la sigla che è uscita fuori dall'assemblea che vi citavo prima, oppure insomma la pagina Ostia Antifascista, che è il network di controinformazione che è insomma nostro, diciamo, del territorio. Va bene, vediamo anche che la locandina l'ha firmata il nostro caro Zero Calcare. E fermiamo Casa Pound, stop alla violenza fascista. Allora non ci resta che invitare tutti e tutte questo sabato 11 febbraio alle ore 15:30 alla stazione Lido Centro, come dicevi giustamente tu, facilmente raggiungibile con la ferrovia Roma Lido. E un saluto antifascista e un abbraccio, a risentirci a questo punto direttamente sabato per una diretta magari del corteo. Assolutamente, un saluto a tutti e tutte, grazie, ciao, a presto. Ciao. No, ecco, questo era per rilanciare questo appuntamento molto importante, perché come abbiamo sentito Ostia è un territorio complesso su cui ci sono aperte tantissime contraddizioni. Una di queste è rappresentata proprio dagli stessi fascisti, in questo caso Casa Pound, che imperversano nel territorio ormai da diversi mesi e hanno cercato anche un asse, lo abbiamo raccontato spesso da questi microfoni, un asse con le principali, almeno una delle principali famiglie clan mafioso del litorale, sono gli Spada. E dunque, tra l'altro, ricordiamo anche ultimamente una notizia di un loro ex candidato al consiglio comunale, appunto condannato per impiccetti vari con i balneari, quindi insomma fascisti che riescono ad avere ramificazioni sociali, economiche e clientelari con diversi aspetti di un territorio appunto lacerato dal deserto da una parte politico-istituzionale, perché lo ricordiamo Ostia, o meglio il decimo municipio, che arriva fino alle propaggini dell'entroterra lidense, comprendendo Acilia, Casalbernocchi, per non pensiamo anche a quartieri più magari altoborghesi come Casalpalocco o Infernetto, però insomma un bacino d'utenza molto ampia, quartiere più popoloso di questa città, quartiere peraltro anche più giovane, come ci ha ricordato lo stesso compagno al telefono prima, un'età media tra le più basse di questi della nostra città. E dunque questo può essere, questo di sabato 11 febbraio può essere sicuramente un appuntamento per cercare, non dico una ricomposizione, ma in qualche modo un tornare magari a parlare insieme di alcune realtà su un terreno che appunto, come abbiamo detto, è molto molto problematico, contraddittorio e complesso.